got your macaroni. Hello, it are we looking for an angel? No, ever comes away. Yeah, I'm telling you, I'll be nothing. That you want in your own embrace. Fire in the corner, handsome. Living up, yeah. The Roni. Lady with a tender. Making that a new way. When I feel it, I'm wondering. Yeah, I'm dying of a many weapon. Tell the world of a long race. Lie up on a gun and answer. And explore on the space. Till I can tell, need a child. With a bomb for a big wife. With a last mile. Whoa, with a mile. Macaroni. Yeah, that ain't all I will. Looking for a venture. When I ever comes away. Yeah, I'm telling you, I'll find it happen. Turn the world in a long embrace. Lie out on the ground behind it. When the explorer is being here. I can tell, meet the child. With a fire, I'm born to be wild. You can walk some higher. Walk on with a mind. Born to be wild. Born to be wild. Whoa! Ci avviciniamo lentamente, lentamente al gran finale. Spencer Davis Groove. Devo parlare un po'. Facciamo prendere il fiato al chitarrista perché. No, innanzitutto dobbiamo ringraziare veramente la Sandra che ci ha dato l'opportunità di suonare perché era da tempo che non suonavamo. Soprattutto per questo grandissimo gesto, credo che sia una cosa molto bella, molto importante, dare un contributo a questi bambini. Per noi è divertimento, magari ci beviamo una birra, scherziamo, mentre invece c'è qualcuno che magari mangia veramente per dei mesi con il nostro piccolissimo sforzo. Ok, andiamo avanti. When I did my world, it was on my own feet. Grazie anche per questo cestello bellissimo di birra. L'ho aperto un po' in fretta, comunque, vabbè. Andiamo avanti con i Deep Purple. Deep Purple. Credo, è giusto, Alberto? Dobbiamo caricare il batterista, ok? Vai. Potrei morire, Oramai, vabbè. Dai, tira l'ultimo sospiro, Mauro.